anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! Riconosca me stesso e salvami la sete del meglio. Per quello che non colgo al primo ascolto, concedimi un secondo, concedimi una svista, una seconda vista, una seconda vita, una via d'uscita. Fammi fesso, fessura, lascia entrare frescura, questa testa dura e chiusa. Fammi fesso, fesso come fessura, lascia entrare frescura, in questa stanza chiusa e buia. Fammi fesso, fessura, lascia un'apertura, fammi fesso, fesso come fessura, fesso di natura, tutto scorre e muta. Fammi fesso, fessura, tutto scorre e muta. Fammi fesso, fessura. Cambia codice d'accesso del mondo a me stesso. Dammi di meno più intenso. Fatica e risveglio. Salvami da quel che già so e che già penso. E dal colore che vesto. Da chi mi fotocopia identico a me stesso. Salvami con un nome diverso. Salvami con un nome. Salvati, coglione, salvati tu. Fammi fesso, fesso come fessura, lascia entrare frescura in questa testa dura e chiusa. Fammi fesso, fesso come fessura, lascia entrare frescura in questa stanza chiusa e buia. Te lo dico ancora. We'll be right back. E buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è una nuova puntata di Basement Records, puntata speciale perché, ahimè, sono un'altra volta chiuso dentro casa in quarantenato, quindi niente trasmissione ufficiale dalla regia, ma direttamente dall'home studio di Penafoco. E quindi rispetto ai recuperi vinilici soliti, stasera vi toccherà ascoltarvi tutte le ultime novità, cioè le ultime novità quantomeno che sono arrivate alle mie orecchie, che mi sto ascoltando ultimamente. Infatti ho preparato per voi una selezione delle cose che frullano di più dentro il mio impianto. Quindi ahimè, ahi voi, non lo so, me lo direte alla fine della puntata come è andata. Però prima di iniziare, come sempre, voglio ricordare gli indirizzi per mettervi qui in contatto con noi di Radio Wombat. Il sito è sempre radiowombat.net. La nostra frequenza in onde medie, in onde mediocri, se siete dalle parti del comune di Firenze, la frequenza è sempre 1359 1359. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre su Twitter, twitter.com Radio Wombat Fi, e invece su Facebook, facebook.com/Radio Wombat Firenze. E quindi, a questo punto giunti, come si suol dire, arriviamo appunto alla selezione di stasera. Partiremo in ambito jazzistico, come saprete è un settore che mi piace particolarmente, e poi ci addentreremo poi in un mix di vecchi e nuovi brani che ho recuperato per voi per questo set, per questa selezione di stasera. Spero che vi piaccia e ci sentiamo a fine selezione. Wombat. I can rebuild a nation. I can rebuild a nation. I can rebuild a nation. No longer working. Yeah. No longer working out. Yeah, baby. No longer working out. I can rebuild a nation. Kent Records, Radio Wombat. Wombat, Tonight, Basement Records. Basement Records, Radio Wombat. Basement Records speciale Radio Wombat. Thank you. Records Special Radio Wombat. Down in Danville, Pennsylvania, all the children are insane. First they drove me from the schoolyard, then they beat me around the brain. Pennsylvania, want to live there. Thank you. Croatia. Basement Records, Radio Wombat. Sometimes we're lost, sometimes we're blind. Radio Wombat Basement Records Special. Radio Wombat Basement Records Special. Ah! Basement Records, Radio Wombat. Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. Basement Records speciale Radio Wombat. Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. Basement Records, Radio Wombat, Special Mix. Basement Records, Radio Wombat. Basement Records, Radio Wombat. Basement Records, Radio Wombat. Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. Bene, bene, bene, questo era l'ultimo brano della selezione di stasera. Questo era Io sono un cane con il suo ultimo lavoro, Ira, del 2021. Volevo chiudere così questa selezione di stasera. Spero dalle prossime puntate di riessere in regia, come di consueto, a condurre Tonight Alive e Basement Records, però per adesso spero che la selezione casalinga vi sia piaciuta, vi sia rimasta interessante, lo spero, se no infamatemi come sempre, e non posso fare altro che rinnovare gli appuntamenti di domani, di domenica, qui sulle frequenze di Radio Wombat. Vi invito a leggere il palinsesto, il programma di domani, di domenica, è sempre molto molto fitto, e con noi rinnovo l'appuntamento con il qui presente Pena Fuoco a settimana prossima con Tonight Alive o Basement Records, ovviamente sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat, dove se no. Ciao ciao, buon weekend. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore.